Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Questa sera vi portiamo all'Arsenale di Venezia, che è stato lo scenario nel quale si è svolto il primo esperimento, si è vista la prima applicazione concreta di un progetto che si chiama, un acronimo improbabile, EUFET Subcultron, progetto finanziato dall'Unione Europea, facente parte del programma Horizon 2020, che ha visto mettere alla prova un primo nucleo di quello che diventerà una sorta di ecosistema robotico. In futuro sarà composto, pensate, da 120 pesci robot interconnessi tra loro con compiti prevalentemente di monitoraggio ambientale. Tutto questo è stato messo alla prova per la prima volta appunto lo scorso 15 settembre alla Darsena. Per parlarcene c'è in linea con noi Cesare Stefanini dell'Istituto di Biorobotica, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera Stefanini, benvenuto. Buonasera a voi. Allora, intanto in realtà questo progetto, come sempre, prevede la partecipazione di molti partner. Sono 6 le nazioni coinvolte. Per quanto riguarda l'Italia, oltre a voi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ci sono anche il CNR ISMAR, il CORILA. Ecco, allora, dicevamo che quello che è stato sperimentato intanto è una sorta di ecosistema, nel senso che ci sono non solo tanti robot, ma anche sono di tipologie diverse. Iniziamo dalle 3 tipologie fondamentali. Sì, abbiamo innanzitutto una stazione di superficie, una sorta di piccole imbarcazioni robotiche senza pilota che possono colloquiare con l'operatore a terra, grazie al fatto che in aria si può comunicare con i segnali radio. Che vengono chiamate ninfe artificiali, giusto? Esatto, sì. Nell'acqua invece abbiamo dei mitili, che vengono chiamati così perché non nuotano, non sono pesci, e dei pesci, quindi mitili che possono posizionarsi sul fondale e risalire in superficie, e pesci che invece possono nuotare. Ecco, i pesci naturalmente hanno la funzione appunto di esplorare. Qual è quella dei mitili? Che sono lunghi mezzo metro, tra l'altro, ecco, un po' più grossi, diciamo, delle cozze. Almeno per ora non so se è una fortuna o una sfortuna, cozze di mezzo metro non se ne vedono. No, diciamo che la dimensione è legata alla quantità di strumentazione. Certo, ma ci mancherebbe. Sono trasportati dalle ninfee, quindi le ninfee hanno un organo di presa che li colloca in una zona di interesse. Poi vengono lasciati immergersi e andare a depositarsi sul fondale, e qui possono scattare fotografie, quindi raccogliere immagini, misurare parametri dell'acqua, quali la salinità, il livello di ossigeno, torbidità, oltre ovviamente a temperatura e pressione, ma anche con un sistema laser poter valutare il particolato, le particelle presenti nell'acqua, tutto questo per capire la qualità dell'ambiente. Inoltre possono diciamo comunicare anche tra loro se non si trovano a grande distanza. Ma riescono anche a parlare poi con questi pesci robot, se ho ben capito? Ecco, il pesce, potendosi muovere e coprire distanze più grandi, può trasportare l'informazione anche tra i mitili e altri mitili vicini, in modo da creare appunto quell'ecosistema a cui faceva riferimento, in cui più unità possono anche convergere su una decisione. Quindi se si vuol sapere qual è il livello di inquinamento, ad esempio, di una zona, più punti di rilevamento possono scambiarsi informazione e poi avere un dato globale più accurato che non la singola misurazione. Ecco, ma ho capito bene, questi mitili affondati sono anche dei luoghi dove possono essere depositati temporaneamente, immagazzinati dei dati? Sì, sono pensati per poter operare per anche intervalli di tempo ampli, quindi si va da alcuni giorni fino addirittura al mese o ai mesi, e in modalità ovviamente di basso consumo energetico. Loro continuano a raccogliere dati e li registrano in una sorta di memoria di bordo. E ci descrive invece un po' quali sono i compiti dei pesci robot? Sì, allora i pesci hanno, come dicevo, il compito di scambiare informazioni tra le varie unità sia di superficie, quindi la stazione ninfea che i mitili, ma anche quelli di esplorare aree nuove in cui non sono insediati gli altri tipi di robot. Quindi hanno una buona velocità di navigazione e inoltre hanno una sensoristica di bordo evoluta che gli consente di evitare ostacoli, di immergersi anche in cunicoli, in zone abbastanza confinate in cui anche la mobilità è limitata, e a questo scopo hanno anche un sistema di captazione dell'ambiente ispirato a dei pesci dell'America Latina che riescono a muoversi anche in acque torbide. Ecco, senta, qui tra l'altro c'è un elemento molto affascinante che è quello dell'intelligenza collettiva, cioè questi pesci robot sono dotati di una loro, come ci ha anche appena spiegato, diciamo, intelligenza individuale, ma poi si possono anche comportare come un banco di pesci. Sì, esattamente. Appunto l'intelligenza distribuita o di sciame, così viene chiamata in robotica, è una modalità di percezione dell'ambiente e di estrazione delle informazioni in tempo reale che fa sì che si possano avere azioni coordinate. Ad esempio, si vuole ricercare una zona che ha certe caratteristiche chimiche, si può pensare a questa società come a un unico organismo che cambia la propria forma e si dirige verso la sorgente o il target. Ecco, adesso io faccio un esempio banale, ma quando si fa una qualunque ricerca di qualcosa, normalmente no, ci si divide, per esempio ci si organizza fra persone, ci si divide e si va alla ricerca. Ecco, questi sistemi sono in grado di gestire, per esempio, attività di questo tipo. Esattamente, in modo coordinato. Il più bel esempio che abbiamo è il nuoto di pesci in sincronismo, in cui abbiamo, penso, visto, abbiamo potuto vederlo tutti, ed è una cosa bellissima. O gli uccelli che volano anch'essi coordinando i propri movimenti. Senta, quali sono, rimanendo sul tema del monitoraggio ambientale, i vantaggi di un approccio di questo genere, che quindi utilizza delle flotte di robot, rispetto agli approcci tradizionali? Allora, abbiamo un vantaggio legato alla possibilità di lasciare queste unità in numero considerevole per tempi lunghi ad osservare l'ambiente, la zona, quindi diciamo così la durata. Poi la ridondanza, avendone molti evitiamo di incorrere nel rischio di non portare a casa risultati perché la missione fallisce. O di portare a casa risultati un po' sfalsati, no? Dovuti a un campionamento scadente, non sufficiente. Esatto. No? E anche proprio alla ridondanza legata al malfunzionamento di un'unità. Certo. L'unità torna in superficie, manda il segnale di SOS, viene raccolta, però il resto continua a funzionare. E anche aggiungerei il fatto che si tratta di oggetti comunque compatti, e quindi anche la facilità di spiegarli e di trasportarli. Senta, chiudiamo con appunto quella che è un po' il tema dell'usabilità. Quali sono gli scenari e anche un po' i costi di applicazione? Dunque, il sistema che abbiamo sviluppato è pensato per fondali non profondi, quindi fondali tipicamente che sono di decine di metri fino a 100 metri. Sono varie le zone di interesse, dai laghi alle lagune, canali. I costi, gli oggetti che stiamo sviluppando, ogni unità, diciamo così, ha un costo attuale, quindi a livello prototipale, seppur ne facciamo tanti perché ne faremo 120, però ha un costo che si aggira sulle centinaia / migliaio di euro a unità. Pensando a una produzione industriale, questi oggetti possono essere inferiori, ogni oggetto va ad avere un costo inferiore alle poche centinaia di euro, e quindi diciamo, in base poi al numero che uno vuole dispiegare, si tratta di budget assolutamente gestibili da soggetti pubblici o privati. Va bene, grazie per intanto Cesare Stefanini. Grazie a voi, un caro saluto. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani, buona serata.